33. Il castello di Ramsay non era un vero castello. Niente merli e torrioni, solo i grandi comignoli sul tetto spiovente. Trasportata nella campagna irlandese, la dimora del governatore sarebbe sembrata una grossa fattoria. A Londra l'avrebbero scambiata per una caserma. Per la terza volta da quando era in Canada, Guy Johnson si lasciò alle spalle il palazzo e attraversò il giardino. Raggi di sole tiepido impregnavano la foschia. 3 colloqui con Carlton, altrettante pugnalate alla schiena. Quella mattina un messaggero di Sir John aveva portato notizie all'accampamento dei Mohawk. I ribelli spadroneggiavano nella valle, avevano arrestato 2 scozzesi mentre montavano la guardia sulla strada di contea nei pressi di Johnson Hall. La situazione precipitava. Secondo le voci, gli uomini del dipartimento erano prede ambite. Non si azzardavano a toccare Sir John, non ancora. Ma per tutti gli altri tornare a casa era troppo rischioso. Nelle prigioni di Albany erano pronte le gabbie. Il messaggero era appena arrivato e già MacLeod domandava licenza di fare i bagagli. Gli Highlander erano rientrati da Fort St. John carichi di risentimento. Si erano battuti con valore, avevano respinto il nemico. 2 giorni dopo Carlton aveva inviato una compagnia per rimpiazzarli. «Tante grazie, tornate pure in città, forse un giorno ci servirete ancora». Usati e messi da parte appena possibile. Carlton preferiva difendere il Canada da solo o illudersi che i contadini francesi gli avrebbero dato una mano, piuttosto che concedere qualcosa ai Johnson e al dipartimento indiano. Nessuno voleva più combattere per il governatore. Anche gli indiani ardevano di delusione. La guerra mordi e fuggi era normale per loro, ma odiavano gli scontri senza bottino, senza scalpi, senza onori e regali a premiare i guerrieri. «La vostra dimestichezza con gli indiani ci sarebbe molto utile a Fort Niagara, colonnello Johnson». Niagara, all'altro capo del lago Ontario, posto migliore dove andare a marcire, in mezzo ai Seneca, ai confini del mondo. Guy varcò la cancellata e congedò la carrozza con un cenno. Aveva voglia di camminare, sgranchire le ossa, forse il tepore della giornata avrebbe sciolto il nodo che bloccava il collo. Ogni giorno si sentiva più basso, schiacciato come una biscia sotto un mattone arroventato dal sole. Doveva uscire dallo stallo, fare la scelta giusta, tentare il tutto per tutto. Ma cosa? A Fort Niagara non sarebbe andato, questo era certo. Un posto da soldati e mercanti di pellicce, dove l'unica diplomazia possibile era leccare i piedi a un pugno di sachem altezzosi e arroganti. Tornare a Guy Park era troppo pericoloso. E poi c'era la faccenda più grave, la seconda pugnalata del governatore Carlton. «Colonnello Johnson, tenente Klaus, vi presento il maggiore John Campbell, appena arrivato dall'Inghilterra con l'incarico di commissario per gli indiani canadesi». John Campbell, l'uomo di Londra, ben introdotto nei salotti della capitale, irrompeva sulla scena da un giorno all'altro per spodestare Daniel Klaus e ricordare a Guy che la sua posizione era appena più solida di quella del tedesco. Non abbastanza per sentirsi tranquillo, immune da ulteriori infamie. Uscire di scena poteva significare sparire per sempre, rinunciare a essere il successore di Sir William. Che fare? Nemmeno il vecchio si era mai trovato in un simile labirinto. Più ci pensava e più se ne convinceva. Serviva poco domandarsi cosa avrebbe fatto al suo posto. La risposta banale era che nessun Carlton pallone gonfiato si sarebbe permesso di trattare Sir William a quel modo. Il vecchio a Montreal c'era venuto per conquistare la città, con 700 indiani, non per fare anticamera in un castello che pareva una fattoria. Lungo la via di St. Paul sciamavano carri diretti al mercato. Gli ingressi dei negozi di tè, pellicce, spiriti e tessuti erano incorniciati da scritte che si arrampicavano sulle facciate fino alle prime finestre, per decantare la varietà e il pregio delle merci. Dai retrobottega aperti si intravedevano le mura e un viavai di facchini che tradiva la vicinanza del fiume, col fronte del porto e gli alberi dei vascelli assiepati attorno ai moli. Davanti alla cappella del soccorso, un gruppo di Caughnawaga cantilenava il rosario per guadagnare l'elemosina dei passanti. Le donne che entravano in chiesa tenevano in mano piccoli modelli di navi. Doveva trattarsi di ex voto, simboli di preghiere esaudite, per un marito in balia dei flutti. Guy desiderò inginocchiarsi davanti alla Vergine dei Marinai per chiedere aiuto contro la burrasca degli ultimi mesi. Si avvicinò alla porta, ma l'uniforme rossa che indossava attirò subito l'attenzione e lo convinse a resistere. Mentre tornava in strada, la mano stretta sul collo, una donna del popolo prese a camminargli a fianco. «Escusez, mio signore, voi très mal! Vostra ombra è lorda!» «Come dite?» domandò Guy. La donna parlava in fretta, un miscuglio di inglese e francese, ma nessuna delle due pareva essere la sua lingua. Era di una razza indefinibile, i tratti del volto europei, la pelle scura, gli occhi appena allungati, le labbra carnose delle africane. «Vostra ombra è lorda!» indicò per terra. «Lei va a distaccarsi, capite? La morte vi segue, di là du lac!» Guy trasalì e le afferrò un polso. «Mi state gettando il malocchio!» «No, signore, Musulà non fa! La Vergine piange i vostri lutti!» A Guy parve che il cervello dovesse tracimare, che la strada fosse il ponte di una nave su un oceano in tempesta. Strinse i pugni come quando aveva visto il taglio, come davanti al bambino immobile sotto le fasce. «Bandoka ha fatto il nido, ici!» La donna si toccò dietro la nuca. «Dentro il vostro collo, e lui adesso fa tre mal!» Come risvegliato da un negromante, Guy si ricordò di essere a Montreal, in un vicolo laterale della via di Saint Paul, davanti a una fattucchiera di nome Massoulà, che conosceva di lui molte cose, dalle disgrazie più nere ai dolori cervicali. Con uno sventolare di dita la donna lo invitò a seguirla. «Venì, un po' di moneta soltanto, venite avec moi!» Guy esitò. Ci mancava il trucco di un borsaiolo francese per chiudere la giornata in bellezza. La donna fece un centinaio di yard e sparì dentro una locanda a ridosso delle mura. Un attimo dopo si sporse e agitò il braccio per richiamarlo. Guy si incamminò, pensando che in un locale sulla strada non c'erano da temere imboscate. Arrivato sulla soglia dovette ricredersi. Sul muro campeggiava una stampa di Re Giorgio appesa testa in giù. Gli occhi degli avventori balzarono sull'estraneo in uniforme rossa come gatti affamati su una ragosta rovesciata di schiena. Nessuno sembrava contento di vederlo e, a giudicare da imprecazioni e sputi a terra, nessuno voleva dimostrare il contrario. La donna era seduta in un angolo e Guy si affrettò a raggiungerla. Appena si fu accomodato, la teppa francese tornò a scrutare carte e bicchieri. Gli parve di sentire il fruscio delle lame che scivolavano nei foderi. «Voi avete beaucoup de bandoka, mio signore, vraiment beaucoup. Un uomo malvagio viene da tre lontano, attraverso il mare. Anche lui l'ha mandato bandoka. Bisogna togliere. Musulà vi dice come. Allora l'ombra è di nuovo leggera, il collo leggero, voi libero.» Un uomo malvagio da molto lontano. Con gli occhi della mente Guy vide il volto azzimato di Campbell, parrucca corta e incarnito pallido. «Bandoka importa, via la magione, poi la famiglia, poi il travail, poi l'argento, poi la sanità. Alla fine importa via l'ombra e siete perduto.» Guy rabbrividì e a stento si trattenne dall'ordinare un cognac. L'elenco dei malanni sembrava una formula rituale, ma era difficile non riconoscervi lo stillicidio degli ultimi mesi sciagurati. «Ditemi dell'uomo che attraversa il mare.» «Sì, lui porta bandoka, ma porta anche soluzione. Dovete tagliare la radice du mal.» La donna sembrò sul punto di completare la frase, poi abbassò gli occhi sul tavolo, come in preda a un'improvvisa stanchezza. «Quale soluzione? Avanti, parlate. Ecco una mezza corona.» «Questo è voi che sapete, no, Musulà?» Guy bloccò sul tavolo la mano della donna, mentre allungava le dita per afferrare la moneta. Si sentì preso in giro, il solito trucco da strapazzo. Azzeccano un dettaglio, poi vanno avanti a filastrocche e indovinelli. Fece per alzarsi, ma prima che le natiche lasciassero la panca, rivide il volto di Campbell, sentì nelle orecchie le sue parole. «Il ministro delle colonie mi prega di consegnarvi questa lettera e vi sollecita a inviare quanto prima un elenco di riprovazioni e doglianze da parte degli alleati indiani di Sua Maestà.» Campbell portava una lettera di Lord Dartmouth, il ministro delle colonie. Un elenco di doglianze, ecco cosa chiedevano da Londra. La presa di Guy si allentò e Musulà infilò la moneta sotto il vestito. «Tenete sempre con voi questo, mio signore.» La fattucchiera allungò qualcosa sul tavolo. «Per tagliare la radice du mal, per affrontare le passage.» La donna si alzò in fretta e raggiunse l'uscita, prima che Guy potesse fermarla. Osservò il piccolo oggetto sul tavolo. Non era che un pendaglio ricavato da una conchiglia forata. Scosse il capo, l'afferrò e lo fece sparire in tasca. Uscì dalla locanda, stordito e stanco. Affrettò il passo, mentre il sole di mezzogiorno colava sui tetti riflessi di miele.